da due begli occhi che legato m'hanno, da due begli occhi che legato m'hanno, e benedetto il primo dolce affanno che ebbi ad esser con amor congiunto. Pensier mio, che sono